E sono le ore 21 anche per oggi, 3 luglio del 2019, inizia prove tecniche di trasmissione. Appuntamento esistente ormai dal lontanissimo 1992, un appuntamento che tratta di sonorità vicine all'industrial nell'accezione più ampia del termine, al dark ambient, all'ambient in generale, al noise e a tutte le contaminazioni del genere. Uno spazio che andrà avanti sin da ora fino alle 22.30 con ai controlli il sottoscritto Elettrodo. Già c'è qualcuno connesso fondamentalmente via streaming, ossia Marta qui da Roma, Nicolo Locci dalla Sardegna di Stigmate, altro musicista di valore è sicuramente Stefano Di Serio alias Like Awake, al pari di Lupsi, dietro al quale pseudonimo si cela Lucia Cagliazza, e che sentiremo anche proprio in questa trasmissione. Onnipresente Antonio Zoviet da Firenze, anche lui artista con Omicidio, uno dei progetti più interessanti per quanto riguarda il death ambient, l'industrial, il noise. Noi iniziamo con una ultimissima novità, una novità che attendevo da un po', da qualche annetto. Trattasi dell'ultimo album dei Der Blaue Reiter, progetto spagnolo di Barcellona. Un album che si chiama United Yet Divided. Un album che riprende parzialmente le tematiche neoclassiche, neosinfoniche, anche neofolk se vogliamo, anche se in questa occasione forse la sviluppa un po' meno e si privilegiano addirittura qualche lieve passaggio elettronico, quindi un cambiamento in qualche modo c'è nel suono di Der Blaue Reiter. Comunque è uno dei progetti che personalmente ho più amato negli ultimi anni. Questo dovrebbe essere il settimo lavoro, vediamo un po', 1, 2, 3, 4, no, il sesto lavoro. Il primo fu nel 2006, Le Pardi Funèbre, L'Inverse du Tristesse. Poi Silensis, questi due lavori uscirono per la Iberica Caustic Records. Poi ci fu Nuclear Sun, Le Pardi Funèbre parte 2, Fragments of Life, Love and War, e questo appunto United Yet Divided, che esce per la tedesca Dark Vinyl. Quindi con un minimo di emozione lo andiamo a conoscere. Teniamo conto che l'album praticamente fa un excursus sulle vicende anche politiche, se vogliamo, dell'Europa dalla seconda guerra mondiale in poi fino ad oggi, passando per le vicende che hanno caratterizzato per esempio la divisione nel muro del Buno di Berlino, la lotta di liberazione spagnola, la guerra fredda e altre questioni. Questa sera appunto Prologue 1945, Peace in Europe, The Start of a New Era e East and West, Occupation Under the Soviet Union. All right. Dunque, Der Blaue Reiter ritornano tra noi con questo ultimo lavoro, United Yet Divided, un excursus per le vicende europee dalla seconda guerra mondiale in poi fino ai giorni nostri. Progetto, come ho detto, proveniente dalla Catalogna, da Barcellona, con Satori Serenort, fondatore e suonatore di tutte le tastiere e delle percussioni, che si è avvalso anche del ritorno di una vecchia componente del gruppo, Lady Knot, al violino, e poi la voce anche di Cecilia Biargo degli Arcana, progetto svedese. Un gruppo dalla forte epicità, un gruppo evocativo, neosinfonico, con queste melodie meravigliose che vengono anche sottolineate da passaggi al synth che fino ad ora nei lavori precedenti erano fondamentalmente assenti. Dunque si va a risalutare su queste note meravigliose ancora Marta, e anche un benvenuto a Sisto Palombella, vecchia conoscenza e maestro della fisarmonica, Fulvio Biondo di Solar Lodge. Insight Wall dall'entroterra milanese, se non sbaglio, Jean-Claude Berthaud, anche lui vecchia conoscenza da Aosta e Benedetta qui da Roma. La forza, la potenza, la capacità evocativa di questi Der Blaue Reiter. Eccoci qua anche Tania, qui da Roma. Der Blaue Reiter, che soprattutto in questo album fanno trasparire, credo, l'amore che hanno avuto e che hanno tuttora per gli In the Nursery, che tutti quelli affezionati a questi spazi sicuramente conosceranno. Ci trasferiamo a Light Tower Records, etichetta parallela alla Nespless Sounds, etichetta di Napoli fondata da Raffaele Pezzella, assoluto protagonista delle nostre selezioni sia come musicista e anche come produttore ormai agitatore culturale in genere. Ultimo passaggio per questa Decay, Death and Darkness, Aural Visions of Bixinski, questo album dedicato alle gesta del artista multimediale Bixinski polacco. Una compilation che si chiude con un progetto dal nome Deo Fall e il brano si chiama Scoff. Questi bagliori sinistri appartenevano a questo artista ai più sconosciuto, me compreso, si chiamava Deofol. Sempre da questa Decay, Death and Darkness, questa compilation che esce per Eight Hour Records, label fondata da Raffaele Pezzella. O non so che effettivamente visionario e psichedelico nella miglior tradizione, per esempio, dei lavori lenti, come giustamente ci dice Antonio, di David Tibbet, di Current 93, o di più svariati, delle più svariate manipolazioni sonore di Nars, Witwoud o Soviet France. Quindi ci siamo gustati questa compilation per molte settimane. Raffaele Pezzella questa volta invece ce lo andiamo ad ascoltare proprio come musicista. Naturalmente il suo progetto si chiama Sonologist e da pochissimo è uscito un nuovo lavoro dal nome Phantoms. Un lavoro che, Phantoms come saprete vuol dire fantasmi, ma fantasmi intesi come memorie evanescenti, ectoplasmi di ricordi, pellicole di documenti sonori estratti da vinili, vecchi vinili e tutti assemblati, come quelle cose che ci affollano la mente ma che talvolta non riusciamo a inquadrare, e questi sono i fantasmi come li intende in questa opera Raffaele Pezzella. Un album che, come sentirete, si dipana anche in maniera un po' diversa rispetto al passato. Quindi lo conosciamo con Three Options Collided e Shamanic Right Passing on a Surgery Table, Equipped with Axes and Trumpet, un titolo lunghissimo, e quest'ultima potrete anche apprezzare il potere veramente sciamanico ed etnico di questa traccia. Eccolo qua dunque, Sonologist. Thank you. Vediamo anche Maya, sempre lei della Sardegna, anche lei una vecchia conoscenza di questi spazi di Radio Onda Rossa, prove tecniche di trasmissione e Disorder. Ebbene, sonologist nella persona di Raffaele Pezzella, un ottimo lavoro dal nome Phantom, con questi field recording, queste voci rubate da situazioni reali o da memorie intime, da abissi profondi dove ci si può anche perdere, nel suo genere, anche se vogliamo un approccio psichedelico, anche questo di sonologist, che a tratti però mi ha anche ricordato le avanguardie europee degli anni passati, la musica concreta e dodecafonica. Phantom, che ovviamente ascolteremo anche la prossima settimana. Veniamo a Lupsi, a Lucia Cagliazza. Anche lei ha collaborato con Raffaele Pezzella. Pezzella l'ha spesso aiutata in sede di mixaggio della sua arte, dei suoi brani. Fino ad ora un album dal nome Eve, ma anche tracce qui alla Sparse che di tanto in tanto lei tira fuori e che provvede a passare anche al sottoscritto. Lucia, come i più sapranno, suona la chitarra trattata e tastiere. Questa sera una traccia dal nome Antropocene, dove è anche ospite una valente poetessa dal nome di Ilaria Boffa, che declamerà appunto la sua poesia in questo brano, e l'accompagnamento alla chitarra e la composizione in generale ovviamente di Lupsi. Dopo ci sarà appunto Double Bass Darkness, che invece è una collaborazione con il contrabbassista Simone Serafini. Ce lo andiamo ad ascoltare. It moves to every landscape. It brings a new literacy. And at night, the hunger. A sun lost and yet not lost. It classifies the geology. It took my citizenship away and taught me yours by stratification. To every landscape. It brings a new literacy. You and then plastics, the metal and glue, foam of polystyrene. Foghorn. A foghorn. A sun lost and yet not lost. It calcifies the geology of this anthropology. A sound lost and yet not lost. It moves to every landscape. It breaks and it calcifies the geology of this anthropology. It took my citizenship away and took names, my certification, you, and then plastics, the man, and you, from a false time. Thank you. Dunque, due interessantissime composizioni di Lupsi, di Lucia Cagliazza, a chitarra trattata e tastiere, in collaborazione con due personaggi di indubbio spessore, la poetessa Ilaria Boffa e il contrabbassista Simone Serafini, un contrabbasso suonato ovviamente con l'archetto, come i più attenti avranno notato. Attendiamo con interesse un nuovo lavoro dunque di Lupsi, che salutiamo come salutiamo Ilaria Boffa. Una manciata di tracce, le restanti, le rimanenti ce le ascolteremo anche nel proseguo di questo mese di luglio, prima della chiusura di agosto, che ci sarà per la radio nella sua interezza come tutti gli anni. Cambiamo atmosfere, movimentiamo leggermente dal punto di vista ritmico, ci andiamo alla Gallacorro in Germania e lo facciamo attraverso Herz Jüning, questo secondo lavoro dal nome Samsara. Eccola qua, Pine Sits In e Wideren Tritt. Stanno per scattare alle ore 22 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa in modulazione di frequenza e con il sito internet www.ondarossa.info. Ricordo anche l'indirizzo email della radio, ondarossa@ondarossa.info. E domani invece sul sito